Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici. Nei giorni scorsi la Banca d'Italia ha pubblicato uno studio di Emanuele Felice sul dualismo nello sviluppo dell'economia italiana, in particolare sul divario dello sviluppo nelle regioni tra Mezzogiorno e resto d'Italia. Questo saggio è interessante, potete trovarlo sul sito della banca, ed esamina storicamente l'andamento di questo dualismo che si è sostanziato nella polarizzazione attorno a due Italie, e ha il merito lo studio di richiamare l'attenzione su un tema troppo trascurato e sul quale quando si interviene più spesso con slogan che non con analisi serie. E allora a questo proposito vi segnalo un libro recente di uno storico che si vuole rivolgere a tutti i lettori, non soltanto agli specialisti. Si chiama Guido Pescosolido e ha scritto La questione meridionale in breve, 150 anni di storia, pubblicato da Donzelli, 168 pagine, 20 euro. La questione meridionale ha accompagnato il consolidamento dello Stato unitario e anzi, dice l'autore, è questo del Mezzogiorno l'unico problema che è rimasto irrisolto dopo l'unificazione del paese. Ma Pescosolido smonta subito anche molti luoghi comuni, tanto per cominciare ricorda che la storia del Mezzogiorno è stata comunque una delle più dinamiche e positive dell'area mediterranea. In secondo luogo ricorda che non è vero che lo Stato unitario abbia saccheggiato il Mezzogiorno. E scrive: la condizione creatasi nel 1861 nello Stato unitario fu per il popolo italiano migliore e più progressiva dal punto di vista non solo politico-istituzionale ma anche economico, sociale, civile di quella sino allora vissuto negli antichi stati pre-unitari. Gli interventi per ridurre o annullare il divario si sono moltiplicati nei decenni, ma gli effetti sono stati quantomeno contraddittori. E c'è stato solo un periodo, secondo lo studioso, in cui ci sarebbe stata la possibilità di vincere la sfida, ossia quello successivo al miracolo economico, quando le condizioni della finanza pubblica avrebbe consentito di affrontare in modo risoluto il riequilibrio territoriale. Invece si imboccò un'altra strada e sentiamo adesso quali sono state le occasioni perdute in questa conversazione con l'autore. Buonasera Guido Pescosolido. Buonasera. Guido Pescosolido, il suo libro parte con una considerazione che riguarda non soltanto il Mezzogiorno ma tutta l'Italia, cioè il fatto che ridurre il divario tra nord e sud è primario interesse del settentrione, del nord. In che senso? Ma è primario interesse del nord perché, come si evince anche dai dati Svimez più recenti presentati nelle anticipazioni del rapporto di quest'anno, una quota consistente della produzione industriale del nord manifatturiera finisce nel Mezzogiorno. E poi c'è il dato di carattere generale, che un'economia capitalisticamente sviluppata che abbia il proprio interno uno squilibrio territoriale così forte che supera il 40%, finisce per avere al proprio interno, diciamo così, un'area che diventa una palla al piede e che quindi si trasforma in un fattore di rallentamento dell'intero sviluppo nazionale. Questa era una considerazione che faceva già Rosario Romeo negli anni 50 a conclusione del suo Risorgimento e Capitalismo. Fermiamoci un momento proprio su questo tema, quello del risorgimento. Lei nella sua analisi storica fa giustizia di molti luoghi comuni che si sono diffusi anche a opera dei cosiddetti neoborbonici e mette in luce come non ci sia stato affatto un saccheggio da parte del nord dell'Italia unita nei confronti del Mezzogiorno. Le condizioni ataviche del Mezzogiorno, lei scrive, erano di debolezza politica e di arretratezza economica, quindi un luogo comune che va sfatato. Sì, nel senso che la mia tesi è che sia l'Italia settentrionale sia l'Italia meridionale avessero in comune un grave problema da risolvere, quello dell'accorciamento delle distanze dal nord Europa in termini di industrializzazione. Il reddito, diciamo così, tra le due economie, il reddito pro capite, non era così pronunciato proprio perché il nord non aveva un grandissimo vantaggio in senso industriale, ce l'aveva molto contenuto rispetto al mezzogiorno perché erano entrambe arretrate, entrambe avevano uno svantaggio enorme rispetto all'Inghilterra, alla Francia, un po' anche il Belgio e la Germania. Per quanto riguarda l'unificazione politica, io ho verificato che poi questo gran trasferimento di risorse da sud a nord, all'inizio attraverso l'unificazione del debito pubblico, poi attraverso un grande squilibrio del sistema fiscale, cosa denunciata energicamente da Nitti alla fine del XIX secolo, ecco, questo grande trasferimento non c'è stato. C'è stato in misura minima, molto inferiore a quella sostenuta da Nitti, come del resto Corrado Gini dimostrò all'inizio del XX secolo. C'è stato invece un discorso funzionale allo sviluppo capitalistico del Nord, nel senso che soprattutto dal 1887, ma già dal 1861, il Sud è stato un mercato ricco e ricettivo per le merci settentrionali. Ecco, in questo senso ho corretto la vecchia dizione di sfruttamento del Nord da parte del Sud. Ma il Nord si è avvantaggiato. Per quanto riguarda i primati di cui parlano i neoborbonici, sono del tutto inesistenti, perché se non c'era un grande divario in termini di reddito pro capite, c'era un fortissimo divario tra nord e sud in tema di infrastrutture e di sviluppo civile in genere. E non è un caso che poi, quando l'industrializzazione è decollata in Italia, è decollata nelle tre regioni, Piemonte, Lombardia e Liguria, che al momento dell'unità avevano il maggior numero di chilometri di ferrovie e di strade e il minor tasso di analfabetismo. Facciamo un salto di 100 anni, arriviamo agli anni 60-70 del Novecento. Lei denuncia nel suo libro il fatto che in quel decennio fu fatto l'errore capitale nelle politiche che avrebbero potuto attenuare il divario tra nord e sud. In che cosa è consistito questo errore degli anni 60-70 del secolo scorso? Errore 60, cioè, come ho detto, secondo me le scelte fatte dai diversi governi e anche regimi, se si vuole, sono state sempre nella politica di riequilibrio tra nord e sud, sono sempre state condizionate da fattori di ordine interno e internazionali molto forti, che non potevano essere elusi. E invece nel momento, alla fine degli anni 60, noi abbiamo avuto una situazione che è illustrata efficacemente dal grafico che riporto all'inizio del libro sul rapporto debito pubblico-PIL. È documentata dal grande sviluppo economico che l'Italia aveva avuto negli anni 50 e 60. In quegli anni diventa una grande potenza mondiale industrializzata l'Italia. Aveva un bilancio praticamente in pareggio, teniamo conto che il debito pubblico, il rapporto del deficit PIL di quegli anni è il più basso di tutta la nostra storia nazionale, navigava di poco superiore al 30% del reddito. In queste condizioni c'era stato anche un processo di infrastrutturazione fortissimo, va bene, che aveva dotato l'Italia di una rete autostradale tra le migliori d'Europa, per esempio, aveva migliorato la viabilità ordinaria di tutti i tipi e c'erano quindi tutte le condizioni per affrontare in modo definitivo il divario nord-sud e ridurlo drasticamente. Questo non si fece. Teniamo conto anche che nel periodo 62-73 noi abbiamo avuto una riduzione del divario, è stata l'unica fase della nostra storia in cui il divario si è ridotto invece che allargarsi, va bene. Negli anni 70 manca la capacità di fare una politica dei redditi e una programmazione espressamente finalizzata alla riduzione del divario. Negli anni 70 inizia una lotta selvaggia nel paese, sono anche gli anni del terrorismo, ma è soprattutto sul piano della conflittualità sindacale che si realizzano sicuramente delle scelte che non vanno, non permettono, non creano le condizioni per ridurre il divario nord-sud ulteriormente. Abbiamo una crescita spropositata dei salari di tutti i tipi, sia nel privato che nel pubblico, superiori agli incrementi di produttività. Abbiamo una crescita della spesa pubblica che non è più finalizzata produttivisticamente, va bene? Abbiamo un aumento quindi del deficit pubblico, abbiamo un aumento del debito. Il debito parte dal 30% del PIL di quegli anni per arrivare fino al 133% del PIL dei nostri giorni. Quindi lo stesso Saraceno aveva detto: attenzione, che se creiamo un welfare state superiore alle possibilità del paese, noi non potremo mai risolvere il problema meridionale. E quindi il problema di una omogeneizzazione dell'intera economia nazionale e di un potenziamento della sua produttività e della sua capacità di sviluppo. Sostanzialmente dagli anni 70-80 noi abbiamo avuto una crescita smisurata della spesa pubblica per fini improduttivi, con inefficienze di tutti i tipi che si sono verificate a livello regionale, con la liquidazione dell'unica istituzione che era stata capace di realizzare un accorciamento del divario, cioè la Cassa per il Mezzogiorno e la politica di intervento straordinario, e ci ritroviamo oggi con un debito che è il massimo della nostra storia nazionale e in rapporto al PIL inferiore solo a quello che si è verificato all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Ecco, in quegli anni, fine anni 60-70, sarebbe stato possibile percorrere una strada diversa. Dopo è un fatto, non ci si è riusciti. Grazie a Guido Pescosolido, autore de La questione meridionale in breve. Buona serata. Grazie a lei e buonasera. E il libro di Guido Pescosolido si conclude con una nota di ottimismo che trae spunto da alcuni dati che si stanno manifestando proprio in questi mesi, cioè il fatto che nel 2015 il PIL è aumentato nel Mezzogiorno dell'1%, una crescita che è stata superiore a quella del resto d'Italia. Anche più accentuata, ricorda Pescosolido, è stata la crescita del PIL pro capite, più 1,1 nel sud e più 0,6 nel resto del paese. Assieme al reddito, aggiunge, sono cresciuti gli investimenti, l'occupazione, i consumi. Insomma, dei segnali positivi che certo bisogna prendere con prudenza, ma che sicuramente, scrive l'autore, rappresentano il segnale di più forte intensità lanciato dal Mezzogiorno dalla metà degli anni 90 in poi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Partiamo da un fatto di cronaca di cui i giornali hanno parlato nelle scorse settimane che mi ha molto colpito, cioè l'orientamento che sta prendendo piede, anzi ha preso piede in Islanda, grazie alla diffusione delle diagnosi prenatali e alle politiche abortive, di non fare nascere i bambini che manifestino la sindrome di Down. È un dato che ha fatto molto scalpore perché conferma una tendenza a far nascere solo bambini perfetti e quindi è stato accostato a forme di politiche eugenetiche di nefasta, anzi nazista, memoria. Una tendenza peraltro che non è solo islandese, come ricorda il libro uscito qualche mese fa, un libro di un demografo, Roberto Volpi, che ha scritto La sparizione dei bambini Down, un sottile sentimento eugenetico percorre l'Europa. È pubblicato dall'Indau, 90 pagine, 12 euro. In questo libro l'autore innanzitutto sottolinea come la qualità della vita dei bambini Down sia molto migliorata e possa migliorare ancora, ma soprattutto denuncia come la tendenza islandese sia ormai molto diffusa in Europa alla luce proprio della crescita più o meno consapevole della tendenza a scartare un bambino che non sia meno che perfetto. Volpi affronta il problema più spinoso, che il male c'è a volere solo bambini perfetti, e qui l'autore ammette i propri limiti e scrive: sincerità per sincerità, io non credo di saper rispondere non almeno in un modo razionale, convincentemente razionale a queste domande. Però so che non mi piace, anzi credo di detestare nel profondo della mia coscienza, del mio animo, una società che mira alla perfezione di tutti i suoi nati, cercando sistematicamente, scientificamente, di non far venire alla luce neppure un bambino che abbia un qualsivoglia difetto. Anche perché, aggiunge, spesso l'aborto viene praticato su feti che hanno imperfezioni molto meno impegnative della sindrome di Down. Insomma, conclude dell'autore, sta montando, ed è quello che dovrebbe preoccuparci e farci riflettere tutti, un sentimento di rifiuto di un bambino, di un figlio che non sia perfetto sotto l'aspetto fisico e mentale. In società così, aggiunge Volpi, si finisce per non essere più disposti a transigere sulla normalità, si finisce per stabilire uno standard di normalità psicofisica che discrimina tra accettazione e rifiuto. In società così si finisce col non sapersi più misurare con chi ha la sfortuna di nascere anche soltanto un poco diverso, appena un poco distante dallo standard dell'assoluta perfezione. L'etica è ormai un tema, come abbiamo appena sentito, che ci riguarda tutti da vicino sempre di più, e sempre più è connessa a molte scelte che dobbiamo fare nella nostra vita. Lo dimostra un libro relativo a un'attività che abbiamo probabilmente in molti praticato nelle settimane scorse, cioè il turismo. Si è molto parlato nelle settimane scorse di turismo cafone, dei problemi sociali che l'eccesso di turismo può determinare, almeno a leggere certe analisi abbastanza ripetitive che sono comparse sui media nelle settimane scorse. Ma c'è il rischio di un turismo anche non etico, denunciato da un filosofo del diritto milanese, Corrado Del Bo, che ha scritto Etica del turismo, responsabilità, sostenibilità, equità, pubblicato da Carocci, 144 pagine, 15 euro. E nel quale appunto l'autore, lo studioso, affronta il tema di che cosa significa considerare la dimensione etica del turismo. A parte i problemi di impatto ambientale, c'è un atteggiamento che l'autore denuncia, quello secondo il quale troppo spesso i turisti hanno l'abitudine di ritenere se stessi, quando agiscono da turisti, come sciolti in tutto e in parte dalle regole di comportamento cui si sentono invece, e per fortuna, vincolati nella vita quotidiana, come se il tempo della vacanza fosse una bolla esistenziale in cui nulla è vietato e tutto è permesso. Ma, come usa dire, conclude l'autore, l'etica non va in vacanza, né essere turisti esonera dal riflettere criticamente su quel che si sta facendo e sugli effetti di ciò che si sta facendo. E questi sono appunto i temi affrontati in questo libro, che parla della responsabilità e della sostenibilità connesse alle pratiche turistiche, e poi di temi specifici che riguardano da vicino molti nostri comportamenti, per esempio il rischio di voyeurismo turistico, turismo del macabro, un tema che pone alcune questioni che affronta l'autore, per esempio quale distanza temporale e spaziale è doveroso porre tra un accadimento drammatico e l'attività turistica. Qui naturalmente l'autore si riferisce ai tanti selfie che ci si va a fare in luoghi diventati famosi perché sono stati luoghi di un delitto da poco tempo. Altra domanda: la povertà può essere oggetto di turismo lecito? Come considerare dal punto di vista morale la visita delle tombe, l'uso della macchina fotografica sulla scena turistica? Ecco, molti aspetti che appunto ci riguardano tutti da vicino. A proposito di turismo, una pratica commerciale alla quale pure molti di voi saranno ricorsi in queste settimane è quella di trovare opportunità alternative all'albergo per l'alloggio. Magari vi sarete affidati a Airbnb, una piattaforma ormai planetaria che sta rivoluzionando il settore alberghiero. Questa impresa è riuscita a due giovani all'inizio disoccupati americani che nel 2007 inventarono un canale per affittare dei materassini gonfiabili per dormire, che offrirono ai partecipanti a un congresso di design di San Francisco. Loro stessi venivano da quegli studi sul design. La collaborazione tra i due, Brian Chesky e Joe Gebbia, era iniziata già nel 2004 nel campus universitario che frequentavano, e la loro storia è raccontata da Leigh Gallagher, che è una giornalista americana che ha scritto appunto Airbnb, e pubblicato da Egea, 224 pagine, 19,90 euro, tradotto da Paola Conversano. L'avventura dei due è stata certamente sorprendente, anche se ormai lo sappiamo non unica. Fu un'idea osteggiata naturalmente agli inizi da coloro ai quali gli interessati l'avevano proposta e che nemmeno la presero in considerazione, e che è diventata poi una realtà che vale oggi 30 miliardi di dollari. e ha un pubblico di 40 milioni di prenotazioni sulla piattaforma e di 3 milioni di annunci quotidiani. Attualmente, scrive l'autrice, ogni notte quasi 1 milione di persone dorme in un letto che ha trovato tramite la sua piattaforma. Qui ne troviamo la storia del successo, ma anche una dimostrazione di nuove forme di leadership di cui i due ragazzi hanno dato capacità e manifestazione, che così alcuni testimoni di eccezione sottolineano e sintetizzano. Secondo Paul Graham, il motore che guida Chesky è diverso da quello della maggior parte dei neoimprenditori, ovvero ricchezza, potere, successo. Non lavora per Brian Chesky, chiosa Graham. E sono convinto di ciò che dico. Ho visto così tanti neoimprenditori, migliaia. So distinguere gli opportunisti da chi ci crede davvero. Per lui è qualcosa che va al di là del denaro e persino della fama. Ed è per questo motivo, prosegue Graham, che Chesky potrebbe non essere adatto a fare il CEO altrove. È il tipico leader che fa fare agli altri le cose in cui crede in prima persona. Non potrebbe gestire un'azienda a caso. Anche Warren Buffett ha avuto la stessa impressione. È qualcosa che sente nel profondo. Penso che farebbe lo stesso anche se non gli dessero neppure un centesimo per farlo. Restando alla cronaca, ricordo che sabato scorso si è insediato il nuovo arcivescovo di Milano, Mario Delpini, su cui esce un ritratto di Paolo Rodari, che è il vaticanista del quotidiano Repubblica. Si intitola Mario Delpini, la vita, le idee e le parole del nuovo arcivescovo di Milano. È pubblicato da PM, 166 pagine, 15,90 euro, e nel libro sono tratteggiati gli aspetti principali della vita e della personalità del nuovo arcivescovo, di cui vengono anche presentate alcune poesie nelle quali Delpini riassume alcune riflessioni, dimostrando la volontà, come spiega l'autore, di andare fuori dagli schemi usuali per incontrare le persone anche utilizzando forme espressive diverse, varie, nuove. E un altro vescovo importante, questo un cardinale, interviene su un tema affascinante, su una dimensione che troppo spesso si trascura, quella del silenzio. L'autore Robert Sara, il cardinale della Guinea, che all'epoca fu il vescovo più giovane del mondo e oggi presiede il dicastero che si occupa della liturgia, e ha scritto con Nicola Dia La forza del silenzio contro la dittatura del rumore. È pubblicato da Cantagalli, 288 pagine, 22 euro, tradotto da Andrea Cappelli. Si apre con una prefazione del Papa Emerito Benedetto XVI. Cosa può dire il silenzio all'uomo di oggi? Secondo il cardinale Sara, il silenzio della vita quotidiana è una condizione indispensabile per vivere con gli altri. Senza la capacità del silenzio, l'uomo non è capace di ascoltare coloro che gli stanno vicino, non è capace di amarli e di comprenderli. La carità nasce dal silenzio, eppure spesso oggi andiamo in cerca proprio del rumore. Perché? Perché, assomigliando ad una festa, spiega il cardinale, il rumore è un vortice che impedisce di guardarsi dentro. L'agitazione diventa un tranquillante, un sedativo, una siringa di morfina, una specie di sogno, di onirismo senza consistenza. Ma questo rumore è una medicina pericolosa ed illusoria, il risveglio non può che essere brutale. Ma naturalmente il libro affronta anche temi scabrosi, per esempio il cosiddetto silenzio di Dio dinanzi a tanti eventi dolorosi e davanti al male, e a questo dialogo partecipa anche il maestro generale dell'ordine dei Certosini, di un ordine votato appunto al rispetto del silenzio, Dom Dimas de Lassù. E a questo punto il confettino. Ho parlato di bambini e ragazzi colpiti dalla sindrome di Down, e allora vi segnalo di Nicola Orlando un libro scritto con Alessia Cruciani, Vietato dire non ce la faccio, pubblicato da PM, 160 pagine, 16 euro. Nicola Orlando è la ragazza che venne citata dal presidente Mattarella in un discorso di Capodanno agli italiani, nel quale Mattarella ricordò che Nicola aveva vinto 4 medaglie d'oro alle Paraolimpiadi, e Orlando è anche molto nota a un vasto pubblico anche per la partecipazione a una nota trasmissione TV. E qui la ragazza racconta la sua vita, le sue esperienze e il suo impegno, che non le impedisce di guardare alla vita con ottimismo. Scrive infatti l'autrice: in troppi ancora pensano che può essere felice solo chi è nato sano. Gli vorrei chiedere: ne siete davvero sicuri?